Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Eccoci di nuovo, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, e benvenuti al podcast di Effetto Giorno. Una buona giornata a Simone Spezia, grazie come sempre per averlo scaricato. Una giornata intensa che tiene dentro, tra l'altro, molti argomenti che riguardano la comunicazione e le telecomunicazioni. Ci sono le notizie che arrivano da Google, che questa mattina ha smentito un accordo con il fisco italiano per 320 milioni di euro, e ci sono soprattutto le notizie di apertura, quelle che riguardano Mediaset, che ha lanciato un'offerta per le torri di trasmissione della Rai per 1 miliardo e 200 milioni. C'è la questione della responsabilità civile dei magistrati, e vi parleremo, vi spiegheremo esattamente che cosa è previsto nel DDL approvato ieri, che il ministro ha già detto che è disposto a modificare. E ci occuperemo di terrorismo internazionale. Oggi il capo della polizia Pansa ha detto che il nostro paese è sempre più a rischio. Sentiremo un esperto di terrorismo internazionale per farci spiegare un po' meglio in che misura, nella giornata nella quale tra l'altro sono arrivate anche le minacce di Boko Haram. Infine ci occuperemo di calcio, la Champions League. Ieri ha giocato la Juventus, stasera ci sono altre due partite. Soprattutto c'è questa attesa, con un po' di timori, a Rotterdam per l'arrivo di questi 2700 tifosi romanisti per la partita di Europa League di domani. Iniziamo, e iniziamo dall'operazione, dall'OPA lanciata da Mediaset sul Rai Way, i servizi. Appena tre mesi dopo lo sbarco in borsa, Rai Way attira gli appetiti di Mediaset. EyeTower, la società di Mediaset che controlla la rete di trasmissione del Biscione, ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio su Rai Way, la società proprietaria delle reti di trasmissione e diffusione del segnale Rai, di cui gestisce il patrimonio tecnico di know-how e di infrastrutture. L'offerta vale 1,22 miliardi di euro, pari a circa 4,5 euro per azione, e riguarda la totalità di Rai Way. Mediaset, che di EyeTower detiene il 40%, si impegna comunque a garantire l'accesso all'infrastruttura a tutti gli operatori TV e radio in modo indipendente. L'obiettivo è creare un grande unico polo nazionale dell'infrastruttura televisiva da 5.000 antenne. Michele Polo, professore ordinario di economia politica all'Università Bocconi. Un'operazione che dal punto di vista industriale ha senso se si scorpora questa rete e diventa una rete totalmente indipendente da chi ha contenuti e frequenze, altrimenti si crea un monopolista, un gruppo che fa parte di Mediaset e che ha anche tutte le torri. Ecco, in questo senso secondo me è inaccettabile, io immagino e spero che l'antitrust non passi mai una soluzione di questo genere. L'operazione è condizionata ora al via libera dell'Authority, all'accettazione da parte della RAI e del Ministro dello Sviluppo Economico. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il Movimento 5 Stelle auspica un intervento deciso da parte dell'antitrust dopo l'OPA lanciata da Mediaset su Rai Way, una vicenda che è una diretta conseguenza della svendita del patrimonio Rai operata con la frettolosa quotazione in borsa di Rai Way, sostengono i pentastellati, che parlano di un patto del Nazareno televisivo, il cui rischio è quello di portare alla creazione di un monopolio in un mercato strategico. Una preoccupazione non condivisa dal PD, la privatizzazione vincola Viale Mazzini a mantenere una quota di Rai Way non inferiore al 51%, e questo garantisce che il controllo resti saldamente in mano pubblica, sottolinea il democratico Ansaldi. Sempre sulla Rai continuano nel frattempo le polemiche anche sulla riforma annunciata da Renzi, che non ha escluso l'ipotesi di farla per decreto. Dopo lo stop arrivato dalla presidente della Camera Boldrini, oggi ad intervenire è la democratica Serracchiani. Non spetta alla presidente della Camera dire se ci siano i requisiti di urgenza, afferma la vice segretaria del PD, secondo la quale ci sono tutte le condizioni per arrivare ad un intervento del governo sulla RAI che è necessario e nel quale potrà essere coinvolto anche il Parlamento se non ci sarà ostruzionismo. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Avete sentito un piccolo brano dell'intervista a Michele Polo dell'Università Bocconi di Milano. Vi vogliamo far sentire qualcosa di più perché ci sembra giusto anche capire e spiegare come funzionano i meccanismi. Eccola. L'operazione ha una sua ovvia giustificazione, perché qui stiamo parlando della rete di torri di trasmissione dei segnali broadcasting, che attualmente sono essenzialmente due, quella di Electronic Industrial Tower, cioè Mediaset, e quella di Rai che è in Rai Way. E sono fortemente sovrapposte ovviamente, perché entrambe le reti servono l'intero territorio nazionale e ci sono molti overlapping. Passare a una rete unica permette di eliminare questi overlapping e ovviamente i guadagni di efficienza sono enormi, quindi avremo una unica rete efficiente. Il problema è però che a questo punto si crea un monopolio nel servizio delle torri e quindi non è assolutamente accettabile che questo sia associato a un operatore che ha anche frequente e contenuti. Quindi è un'operazione che dal punto di vista industriale ha senso se si scorpora questa rete e diventa una rete totalmente indipendente da chi ha contenuti e frequenze che serve tutti gli operatori di broadcasting, altrimenti è un'operazione che è semplicemente nasce dal desiderio di uccidere sul nascere quella che sarebbe una competizione per l'offerta di servizi di trasmissione del segnale che emerge adesso nel momento in cui Rai Way smetterebbe di trasmettere solo il segnale Rai, ma sarebbe disponibile a offrire anche il segnale di altri operatori. L'operazione che è stata presentata questa mattina, la sua ipotesi come potrebbe rientrare? È un'ipotesi diciamo ortogonale a quella che è stata presentata, nel senso che l'ipotesi che è stata presentata è quella per cui si crea un gruppo che fa parte di Mediaset e che ha anche tutte le torri. Ecco, in questo senso secondo me è inaccettabile, io immagino e spero che l'antitrust non passi mai una soluzione di questo genere. Intervista realizzata dalla nostra Valentina Furlanetto. Però, come si diceva, c'è anche il punto di vista politico. Abbiamo sentito Vinicio Peluffo, che è un membro della Commissione di Vigilanza Rai del Partito Democratico. Ecco che cosa ci ha detto. Ma mi pare che non tenga conto di un punto incontrovertibile, ossia che l'operazione di collocamento in borsa di Rai Way e la dismissione di una parte azionaria riguarda la minoranza, una quota di minoranza delle azioni. E che è chiaro che il 51%, quindi il controllo della società, deve rimanere alla RAI, quindi in mano pubblica. E quindi deve rimanere là, insomma non c'è come dire, alcuna speranza che arrivi un via libera politico, per così dire, a questa operazione anche da parte dei ministeri competenti? Guardi, questo è quello che è contenuto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla materia, per cui o c'è una decisione del governo che cambia opinione e cambia gli atti, ma non mi sembra che questo ci sia, o altrimenti non c'è possibilità di cambiare il senso e il corso di un'operazione che è stata fatta. Mi spiega una cosa, secondo lei perché Mediaset è partita con questa operazione sapendo, conoscendo i caveat che lei ci ha enunciato? Ho visto leggendo i giornali che l'operazione implica una grande valorizzazione di Rai Way, per cui si parla alla fine dell'operazione di valorizzazione superiore a 1,2 miliardi. Penso che abbiano insistito su questo elemento, quello di fare un'offerta dal punto di vista economico molto appetibile. Però qui stiamo parlando di un'infrastruttura strategica per il Paese, qui stiamo parlando di una decisione netta che è stata fatta, ossia quella di mantenere il controllo pubblico delle reti, per cui per quanto possa essere appetibile l'offerta economica, cozza con una scelta strategica per il bene del Paese, quindi credo che questo prevalga la scelta strategica. Quindi ci può assicurare che non c'è alcuna speranza, salvo che non succedano cose incredibili, che questa operazione vada in porto? Io non la vedo. Lei non la vede. Le voglio fare una domanda, c'è un qualche collegamento, perché molti lo stanno mettendo in relazione, tra il tentativo di acquisto, insomma c'è un po' di movimento dalle parti delle aziende della famiglia Berlusconi, no? Il tentativo di Mondadori, l'offerta di Mondadori per i libri dell'RCS, dall'altra parte questa vicenda qua, lei ci vede un collegamento di qualche tipo? Ma leggendo i giornali vedo che c'è probabilmente una ridefinizione anche degli asset e del profilo industriale. La verità è che spesso continuiamo a parlare di televisione, per esempio, con le categorie dell'analogico. In realtà siamo in un territorio completamente diverso, che è quello del digitale, della convergenza, della cross-medialità, per cui che i grandi operatori iniziano a pensarsi e a pensare le proprie strategie in un ambito, una dimensione diverso, questo ci sta. Io credo che per questa ragione sia necessario anche rimettere mano, ripensare la legge che anni fa fotografò il sistema integrato delle comunicazioni, la legge Gasparri, che già allora era una foto di qualche anno prima. C'è bisogno di aggiornarla. Per questo, secondo me, l'occasione la si avrà l'anno prossimo, quando si tratterà di rinnovare la convenzione alla RAI, può essere l'occasione per mettere mano ad una riforma di sistema del settore, quindi modificare finalmente la legge Gasparri. Un'ultima domanda riguarda la riforma della RAI. Come lei ben sa, c'è stata un po' di polemica in queste ore, anche con la Presidente della Camera, che dice, insomma, non è che ci siano proprio i presupposti per agire per decreto sulla riforma della RAI, non ci sono presupposti di urgenza. Secondo lei qual è la via migliore? Allora, esiste un'urgenza di intervento per mia riforma della RAI? Sì. Perché ad aprile scadono i vertici nominati con la legge Gasparri, quindi con l'elezione da parte della Commissione di Vigilanza. Il Presidente del Consiglio ha detto giustamente, quanto è stato sostenuto da più parti in questi anni, che bisogna cambiare i meccanismi di governance e bisogna cambiare i meccanismi di nomina, togliendo la gestione diretta ai partiti. Quindi l'urgenza esiste. Poi il Presidente del Consiglio ha detto che il tempo per fare questo intervento è fino alla naturale scadenza dei vertici, che lo si può collocare entro luglio. Da qui a luglio c'è il tempo per impiegare i calendari parlamentari per approvare un disegno di legge, quindi una discussione parlamentare. Questo però se l'atteggiamento dell'opposizione di confronto nel merito, ma anche di garanzia, di certezza di approvare quel provvedimento. Pelufo, mi scusi, questo anche se lo incardinate presto un disegno di legge, nel senso che è chiaro che se la scadenza è luglio e il disegno di legge viene presentato a fine maggio, inizi giugno, sarà ben difficile, no, che si arrivi, ostruzionismo o no, ad un'approvazione. Ma il Presidente del Consiglio ha detto di una proposta da fare a marzo. Certo, guardi, ieri con l'ufficio di presidenza della Camera, col Senato, abbiamo calendario alla mano, fatti i conti, e secondo noi il tempo per approvarlo, un disegno di legge entro luglio c'è. Ripeto, però deve esserci l'impegno da parte delle opposizioni di dare una certezza rispetto al tempo nel quale viene approvato, altrimenti l'altra strada è il decreto, perché io sono convinto che l'urgenza della riforma, della governance e dei meccanismi di nomina della RAI ci sia, altrimenti ci troveremmo costretti a nominare di nuovo i vertici RAI con la Gasparri, e secondo me è inaccettabile. L'altra questione che riguarda il mondo delle comunicazioni o delle telecomunicazioni, la vicenda di Google. Questa mattina in grande evidenza sui giornali c'era la notizia secondo la quale Google avrebbe raggiunto un accordo con il fisco italiano per il pagamento di 320 milioni di euro. Google ha smentito il servizio. L'accordo tra Google e lo Stato italiano non c'è, ma cooperiamo con le autorità fiscali. Così l'azienda smentisce tramite un suo portavoce la notizia riportata dal Corriere della Sera. Non è vera, precisa, non c'è l'accordo di cui si è scritto. Stamattina il giornale di Via Solferino aveva dato la notizia secondo cui l'azienda di Mountain View avrebbe raggiunto un accordo col fisco italiano per 320 milioni di euro. Sarebbe ancora in corso invece la trattativa per il pagamento congruo delle tasse in Italia. Per il colosso fondato da Larry Page la cifra contestata sarebbe di 800 milioni di imponibile prodotto in Italia in 5 anni. Anche il procuratore della Repubblica di Milano, Edmondo Bruti Liberati, conferma in una nota la smentita dell'azienda californiana. Allo stato delle attività di controllo non sono state perfezionate intese con la società, che si è riservata di fornire dati e elementi della redditività in Italia. E chiarisce che sono in corso indagini fiscali nei confronti del gruppo, all'esito delle quali saranno tratte le valutazioni conclusive sotto il profilo fiscale e penale. L'inchiesta per frode fiscale riguarda Google e altri giganti di internet e dell'informatica, che sarebbero accusati di non pagare al fisco le tasse sugli introiti pubblicitari guadagnati grazie a clienti italiani ma contabilizzati alle Bermuda e in Irlanda. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. C'è anche un'altra questione in ballo in queste ore, diversa da quella fiscale, è quella che riguarda la cosiddetta web tax, che si sta pensando di introdurre, ossia tassare questi giganti di internet anche per il traffico che transita dai loro siti. Ruben Razzante, dell'Università Cattolica di Milano, intervistato proprio dalla nostra Anna Marino, ci spiega un po' come funziona, quali sono le ipotesi alle quali si sta pensando. Indubbiamente, oltre alla questione fiscale, si pone il problema della protezione del diritto d'autore sulle opere creative anche di natura giornalistica. In alcuni stati, come l'Inghilterra, che dal 1 aprile farà appunto pagare il diritto d'autore ai motori di ricerca, si sta arrivando alla definizione di regole legislative che impongano a questi soggetti aggregatori di contenuti altrui di versare appunto una fee, una percentuale consistente appunto in un diritto d'autore su queste opere che vengono messe a disposizione di una collettività indistinta attraverso i motori di ricerca. È evidente che questo da una parte aiuterebbe le imprese editoriali, darebbe un po' di ossigeno alle imprese editoriali, dall'altro potrebbe contribuire a valorizzare le opere creative anche di natura giornalistica che con questo sistema attuale risultano alquanto valutate, e soprattutto affermerebbe una questione, un principio di civiltà giuridica, cioè il fatto che le opere creative, se utilizzate per finalità commerciali di natura pubblicitaria, devono essere pagate. Nel nostro paese si è parlato di web tax, come dovrebbe essere questa tassa? Una tassa che gradui in qualche modo il versamento del diritto d'autore sulla base del numero di articoli indicizzati, della percentuale del testo dell'articolo messo a disposizione attraverso i motori di ricerca, e io credo che non sia una soluzione quella che si è prospettata e non è detto che venga confermata, cioè quella di un accordo, di una pace tra Google e lo Stato italiano con il versamento una tantum di una cifra che vada a sanare una situazione quinquennale pregressa che riguarda il mancato versamento del diritto d'autore, perché invece bisogna stabilire un principio che valga per il futuro, cioè che imponga a Google e agli altri aggregatori di contenuti di versare con sistematicità una percentuale dei loro ricavi riguardante appunto il diritto d'autore e l'utilizzo delle opere creative altrui. Diritto d'autore, giornalisti e scrittori, come dovrebbe cambiare, diciamo, la remunerazione per quanto riguarda queste figure? Mi pare che la FIEG abbia mostrato grande sensibilità a risolvere il problema e a mettersi anche in ascolto delle esigenze sacrosante della categoria dei giornalisti. Io penso che si possa arrivare a un sistema che consenta alla FIEG di incamerare appunto delle somme grazie al versamento del diritto d'autore da parte di Google e degli altri aggregatori, ma queste somme poi devono essere reimpiegate nella filiera di produzione e trasmissione delle notizie, retribuendo anche meglio il lavoro giornalistico e magari allargando anche il mercato giornalistico con nuove opportunità. Il modello di business delle case editrici cambierà? È destinato a cambiare, ci sono delle modalità trasmissive, delle piattaforme trasmissive di fruizione nuove, è evidente che anche sul mercato editoriale si stanno verificando dei fatti, concentrazioni varie eccetera, che probabilmente modificheranno il modello di business soprattutto per gli editori medi o gli editori piccoli, quindi certamente cambierà, la rete sta contribuendo a modificare questi modelli di business e a introdurre delle modalità più flessibili di fruizione delle opere letterarie. Altro tema di dibattito politico in queste ore, lo sapete benissimo, è la responsabilità civile dei magistrati. Se ne discuterà a lungo, i magistrati torneranno a riunirsi domani, forse potrebbero addirittura decidere uno sciopero. Di certo noi vogliamo fare il punto su come funziona, stando a questo disegno di legge presentato dal governo, come funziona, come funzionerebbe questa responsabilità civile dei magistrati. Ce lo spiega Raffaella Calandra. Intanto diciamo che a neanche 24 ore dall'approvazione della legge il guardasigilli lo ha già detto che sono pronti a correggere alcuni punti, quindi appena approvata ma già si parla di correzione, perché sono due soprattutto gli aspetti della norma sulla responsabilità civile che mettono in allarme le toghe. È una sorta di quarto grado e i tribunali finiranno con l'occuparsi solo di questo, rifletteva questa mattina a voce alta un magistrato. Il rischio più forte visto all'orizzonte è la pioggia di possibili ricorsi, ora che è stato stato abolito il cosiddetto filtro. Questo è il punto più sensibile. Che vuol dire? Già prima la legge Vassalli del 1988 regolamentava la responsabilità civile dei magistrati, che dunque già esisteva, ma fino ad ora esisteva un passaggio preliminare per verificare i presupposti di ogni ricorso del cittadino contro lo Stato, se cioè esistevano davvero quelle ragioni per chiedere una rivalsa o no sul magistrato. Ed era qui che fino ad ora la maggior parte delle richieste di risarcimento si infrangevano, era su questo filtro ora abolito. È comunque però sempre lo Stato a rimborsare il cittadino e poi lo Stato a rivalersi sul singolo magistrato, che potrà risponderne fino alla metà del proprio stipendio, soglia alzata rispetto a quella di un terzo. Ma se questo ha a che fare con la procedura, possiamo dire, entra invece direttamente nel merito delle valutazioni un altro aspetto della legge appena approvata, che fa parlare le toghe di norma punitiva, il cosiddetto travisamento. Vale a dire, potrà esserci un risarcimento per i casi in cui al giudice si contesti un travisamento, appunto, del fatto e delle prove, ma che deve essere macroscopico ed evidente. Comunque, secondo le toghe, questo equivale comunque ad andare a sindacare l'attività del magistrato. Quello che di sicuro ora possiamo dire è che la legge, che raccoglie anche input della Commissione europea che aveva aperto una procedura di infrazione, ha riportato le toghe sul piede di guerra, e anche se l'assemblea di domenica l'aveva escluso, c'è chi ora rilancia l'idea di uno sciopero. Domattina alle 11 l'ANM torna a parlarne ufficialmente dalla Cassazione. Il capo della polizia, Alessandro Pansa, dice che il rischio per il terrorismo si è accentuato nel nostro paese, e questo è evidente anche a causa del fatto che la guerra è sempre più vicina, e l'ISIS è sempre più vicino, è in Libia. È una giornata nella quale arrivano anche le minacce di un'altra organizzazione islamista, Boko Haram. Ne abbiamo parlato con Gianluca Ansalone, che è un esperto di terrorismo per la Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale. È un'analisi corretta, noi siamo senza dubbio esposti quanto gli altri paesi europei e sicuramente più esposti rispetto alle minacce del passato. La vicinanza geografica che porta l'ISIS ad essere a pochi chilometri alle nostre coste evidentemente accentua ulteriormente il pericolo, così come la minaccia posta dai jihadisti di ritorno, i foreign fighters che stanno combattendo oggi in Siria, in Iraq o in Libia e che prima o poi faranno rientro sul suolo europeo e sul territorio italiano. Sì, tra l'altro ci sono dichiarazioni anche su questo di Pansa, il quale dice che sono rientrati sul territorio europeo centinaia di foreign fighters, degli oltre 3.000 andati a combattere in Siria e in Iraq. Una buona parte di essi, dice Pansa, è già rientrata in Italia. Il fenomeno riguarda anche l'Italia. Dall'Italia ne sono partiti una sessantina, quindi sono qua confermati i numeri. Di questi 60, un numero ridotto è rientrato. Oggi Ansalone, lo ripeto, esperto della SIOI, la Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, oggi Ansalone abbiamo avuto anche un'altra minaccia, dopo quelle delle settimane scorse dell'ISIS, quel stiamo arrivando a Roma, che tra l'altro tanta ironia ha suscitato su Twitter, con gente che faceva vedere immagini del grande raccordo anulare trafficato dicendogli siete proprio sicuri. Però al di là di questo è arrivata anche la minaccia di Boko Haram, che ha attaccato anche l'Italia. Quanto dobbiamo temere tutto questo e quanto invece sono dei proclami che riguardano l'Italia in quanto luogo simbolico, no? E centro del cattolicesimo. Sì, ha ragione su questa seconda interpretazione, c'è una buona dose di propaganda e di comunicazione rivolta, attenzione, soprattutto all'interno, l'appello alle armi, la chiamata alle armi serve oggi a compattare un fronte jihadista che non è del tutto compatto se non attorno a determinati obiettivi, e proprio in tema di obiettivi è chiaro che l'Italia, anche per la sua fortissima simbologia, oltre che per questa vicinanza geografica con i principali luoghi di crisi, evidentemente la Libia e il principale tra questi, diventa altamente simbolico per chiamare alle armi diversi combattenti, ad esempio da quell'area dell'Africa occidentale in cui opera Boko Haram. Esiste cioè una connessione strettissima tra la mobilità dei combattenti nel nord della Nigeria e le zone di confine, che sono un buco nero, non sono affatto presidiate. Già questo fenomeno si era avvertito nei mesi del conflitto contro Gheddafi. questi erano numerosi combattenti stranieri, in questo caso africani, che avevano passato la frontiera e si erano arruolati nelle fila degli ribelli, chiamiamoli così. È un fenomeno questo che continua adesso, aveva diciamo conosciuto uno stop nel momento in cui il regime di Gheddafi era caduto e la situazione libica si era avviata su un piano e su un binario più politico. Oggi che la Libia è uno dei principali terreni di scontro, ritorna questo elemento della compattezza del fronte jihadista. L'appello quindi di Boko Haram per colpire tutti gli obiettivi sensibili, ripeto, il più simbolico e anche oggi ahimè il più vicino geograficamente è proprio l'Italia, serve innanzitutto e si rivolge soprattutto al fronte interno dell'Islam militante. L'altro giorno, Anzalone, il nostro Presidente del Consiglio, intervistato da Rai 3, ha detto attenzione, ci sono grandi servizi segreti nel mondo e però in Libia i nostri sono particolarmente forti, anzi sono i migliori. E quindi in una qualche misura, stiamo già intervenendo, per così dire. Ci conferma questa analisi? Cioè è vero che i nostri servizi sono... Così bravi in Libia? Posso dire che sono assolutamente d'accordo, non soltanto rispetto alla Libia, ma rispetto al fenomeno terroristico più in generale. Vorrei dire una cosa: se noi oggi come Italia siamo rimasti al riparo da fatti conclamati e clamorosi, penso a quelli di Londra, a quelli di Madrid, lo dobbiamo sicuramente ad alcune caratteristiche strutturali del nostro paese, ne abbiamo parlato in alcune occasioni precedenti, il fatto che l'Italia sia un paese soprattutto di passaggio, il fatto che noi abbiamo una forma di immigrazione diversa da quella di altri paesi europei, ma lo dobbiamo anche al fatto che i nostri servizi di intelligence sono particolarmente preparati nel prevenire questo tipo di minaccia terroristica e ad avere un occhio più consapevole e più approfondito rispetto alle dinamiche della Libia. Questo, attenzione, non ci mette al riparo al 100%, come ben sappiamo, abbiamo detto, dalla minaccia terroristica, ci dà però sicuramente un vantaggio competitivo che possiamo sfruttare soltanto se la collaborazione e la cooperazione tra intelligence diventa più forte. Lo spazio europeo è uno spazio di mobilità per fortuna integrato, questo significa che nessun paese da solo può essere al riparo alle minacce o può pensare di sconfiggerle. Un'ultima domanda, Anzalone, che tra l'altro ce la suggerisce un SMS che arriva da un ascoltatore e parla appunto dei cosiddetti foreign fighters, dice: rientrati, cosa aspettiamo ad andare a prenderli a casa ad uno e ritirare i passaporti? In realtà è più o meno quello che sta avvenendo, tant'è vero che dai numeri che ha dato Pansa si dimostra che si ha un'esatta misura e un esatto controllo di chi sono costoro, no? Sì, questo è necessario, è evidente che la mappatura deve essere fatta ed è stata sicuramente fatta preventivamente, cioè al momento della partenza dei combattenti, a maggior ragione va fatta nel momento in cui rientrano. Quello dei foreign fighters credo sia il tema principale di sicurezza che oggi deve essere all'attenzione, assieme mi permetto ad aggiungere ad un secondo che è stato analizzato dai quotidiani nei giorni scorsi, cioè il fenomeno della radicalizzazione all'interno delle carceri. Noi dobbiamo cioè comprendere dove nasce questo sentimento di tale propensione al fondamentalismo fino a mettere addirittura a repentaglio la propria vita per un'ideologia, per una religione mal interpretata e mal vissuta. I due punti più sensibili in questo momento sono i reduci che tornano dal fronte, da un lato, e il radicalismo che si sviluppa molto più che su internet, soprattutto sulle nostre carceri, e da questo punto di vista l'Italia è messa un po' peggio rispetto ad altri paesi europei. E c'è anche quello che sta succedendo in Iraq e in Siria nel rapporto annuale di Amnesty International. Se non si porrà rimedio alla violenza globale commessa da stati e gruppi armati che ha coinvolto milioni di persone e di fronte alla quale la risposta della comunità internazionale è stata vergognosa ed inefficace, la prospettiva per i diritti umani nel 2015-2016 sarà tetra. A dirlo il rapporto di Amnesty International riguardo alla situazione riscontrata nel 2014 in 160 paesi del mondo. Situazione che potrebbe aggravarsi per l'effetto combinato di fattori come l'estensione dell'area di influenza di gruppi come Boko Haram o l'ISIS, oltre i confini nazionali, il peggioramento delle crisi umanitarie e dei rifugiati, con un sempre maggior numero di persone in fuga dai conflitti, oltre alle risposte sbagliate dei governi incapaci di fornire assistenza e protezione. Nell'ultimo anno è apparsa poi evidente anche l'impotenza delle Nazioni Unite, istituite 70 anni fa per garantire che non si ripetessero gli orrori della Seconda Guerra Mondiale. Per questo, nel suo rapporto, Amnesty International ha chiesto anzitutto ai 5 Stati membri permanenti del Consiglio di Sicurezza di rinunciare al loro diritto di veto. Gianni Ruffini, direttore generale di Amnesty International Italia. Siamo di fronte a delle crisi umanitarie di grandissima portata. Mi riferisco sicuramente a casi come quello della Siria, dell'Iraq, della Repubblica Centrafricana, della Libia e di tantissimi altri paesi che in questo momento sono colpiti da emergenze di portata veramente biblica. È una situazione che riguarda anche l'Europa, stiamo vivendo una crisi di rifugiati nel Mediterraneo senza precedenti. Il nostro appello è di riportare il tema dei diritti umani al centro del dibattito politico nazionale e internazionale. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo al calcio, che è un calcio in queste ore insieme giocato e di preoccupazione. Giocato è quello della Champions League. Ieri è stata in campo la Juventus, stasera sono in campo altre quattro squadre per altre due partite, ma soprattutto si guarda a quello che può succedere giovedì sera. C'è la partita tra Roma e Feyenoord a Rotterdam. Dopo quello che hanno fatto i tifosi del Feyenoord a Roma, si temono ritorsioni, si temono rappresaglie, si temono nuove violenze e nuovi scontri. Il punto con Carlo Gento. Questa Juve se la gioca con tutti, vediamo. Intanto se la giocherà con il Borussia di Dortmund, che ieri sera ha battuto 2-1 con i gol di Tevez e Morata. Non una Juventus brillantissima, ma una Juventus molto all'italiana, che ha sfruttato le debolezze difensive del Dortmund e andrà a giocarsela certamente in uno stadio molto difficile come quello dei gialli di Germania. Quanto alle partite che ci aspettano, sappiamo bene come ci siano preoccupazioni per la trasferta di domani della Roma a Rotterdam contro il Feyenoord. Sappiamo anche che ci sono preoccupazioni per l'attesa dei tifosi londinesi del Tottenham a Firenze, tutto questo in Europa League. Quanto alla Juventus di ieri sera, ripeto, una Juventus che ha sfruttato le debolezze dell'avversario, che ha portato a casa la partita, che se la giocherà in Germania, però certo cambiando canale fa un po' impressione guardare il Barcellona che maramaldeggia, parola lunga e difficile, sul campo del Manchester City all'insegna di un grande Suarez. Quindi certamente una Juventus che può passare il turno, ma senza la faccia di una squadra in grado di, così, almeno per il momento, di poter impensierire le grandissime d'Europa. Infine ci occupiamo di cultura e di libri, perché il premio più prestigioso in Italia, il premio letterario più prestigioso in Italia, il premio Strega, cambia la sua conformazione. Erano anni che molti invocavano un cambiamento delle regole per il premio letterario italiano più prestigioso, ma anche più chiacchierato. Di fatto, fino ad ora, il premio Strega è stato in mano alle grandi case editrici. Negli ultimi 10 anni la vittoria è andata o al gruppo Mondadori, di cui fa parte Einaudi, o al gruppo Rizzoli, che comprende anche Bompiani. In cinquina arrivavano comunque i libri dei grandi editori. Ora si cambia e vediamo in che modo. Nell'appuntamento di giugno i 460 amici della domenica, ossia i giurati, scelgono fra una rosa di 12 libri i 5 finalisti. Fino ad ora si poteva votare per uno solo. Da questa edizione si potrà votare per 3 libri. Meno pressioni per i giurati? Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci, che organizza il premio. I votanti hanno sempre avuto la possibilità di sottrarsi alle pressioni degli editori, pressioni che non vengono esercitate, diciamo così, a mano armata. E il fatto è che in questo momento, con questa possibilità di votare 3 libri, se intendono votare un autore perché hanno un editore di riferimento, però hanno la possibilità di votare anche altri libri che siano piaciuti di più. Se fino ad ora la cinquina era ampiamente prevista, quest'anno ci sarà decisamente più suspense. C'è anche un'altra novità. Se in cinquina non c'è neanche un libro di un editore medio o piccolo, viene ripescato quello fra i 12 che ha ricevuto più voti e ci sarà dunque una finale a 6. L'edizione si prospetta appetitosa, anche per la presenza, o assenza dovremmo dire, di Elena Ferrante, la scrittrice dall'identità misteriosa, che ha virtualmente accettato di gareggiare per sparigliare le carte di una gara che lei ha definito sempre più finta. Manca ancora la firma di accettazione ufficiale, ma è probabile che al suo posto la metta l'editore. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per il podcast di Effetto Giorno. Un ringraziamento a tutti voi, come sempre, per averlo scaricato. Mi raccomando, iscrivetevi. Lo potete fare molto semplicemente tramite ad esempio un'estensione del vostro browser, oppure se avete un dispositivo Apple sull'applicazione podcast di iTunes, è tutto molto semplice. Iscrivetevi, in questo modo appena sarà disponibile la puntata avrete una piccola segnalazione, una piccola notifica che non vi disturba e però vi dice che la puntata è arrivata. Scrivetemi per suggerimenti, idee, critiche, tutto quello che vi pare. Effetto giorno @radio24.it, contattateci sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. Mettere mi piace è completamente gratuito e anche là potrete avere sulla vostra schermata Facebook i nostri aggiornamenti. C'è anche il mio account Twitter, Simone Spezia, se volete mi potete scrivere anche là. Buona giornata, ci si sente domani alle 13.